Natale Mattanza. Miei piccoli assistenti, alla luce dei fatti non mi rimane altra scelta. Dal prossimo anno si vota a destra, estrema. I commenti rumorosi sottolineano la mia decisione. Oh, i soliti indecisi. Sì, i fedelissimi, quelli nell'ombra. Sì, gli increduli dei gobbas natalizi. E quindi gli ostili? No, quelli di sinistra. Boh, dei testimoni di Giova infiltrati. XXXXXXX. Non ho mai capito che cazzo dicesse. Da quel momento sarebbe cambiato tutto. Via la veste rossa, via. Ora nera come il petrolio. Via la barba e i capelli bianchi da fricchettone, ora rasato e pulito, con un bel tatuaggio sulla testa, con la scritta «Quest'anno non ti regalo un cazzo». Le renne macellate e sostituite con dei simpatici maiali selvatici, alla faccia di quegli animalisti che ogni anno si ostinavano a mandarmi lamentele epistolari sulla mia mancanza di rispetto per gli animali. Quest'anno li avrei cagato in testa. In un attimo la grande fabbrica dei sogni si trasformò nella mia personale fabbrica degli orrori. I piccoli aiutanti bastardi di Babbo Natale furono i primi a fare cordone intorno a me, mentre gli altri cercavano la salvezza fuggendo ovunque. La caccia aperta, è ora di Natale Mattanza! Armati di ogni sorta di giocattolo e al ritmo di un Merry Christmas un po' piondante e gutturale, i piccoli bastardi di Babbo Natale, anche loro rasati e nazionalisti per l'occasione, iniziarono a cacciare gli ostili al nuovo regime natalizio. 5 contro 1, 10 contro 1, 50 contro 1, 100 contro 1, 1000 contro 1, 10.000 contro 1, ma quanti cazzo? Per poi colpirli a morte. Colpi su colpi, colpi su colpi, colpi su colpi, colpi su colpi, colpi su colpi. Voi non immaginate quanti colpi bisogna infliggere con un peluche per uccidere qualcuno. Troppi ma necessari. Prendete quelli di colore. Babbo, ma non ce ne sono. Allora colorateli e uccideteli. Stuprate le loro donne e le loro figlie. Babbo, ma siamo tutti asessuati. Allora stuprate le loro bambole di pezzo. Per babbo è arrivata una lettera. È per voi. È di un bambino. Un bambino. Caro Babbo Natale, quest'anno non voglio chiederti niente. Ho tutto. Vorrei solo che nelle famiglie del mondo trionfi l'amore e la gioia. Babbo, cosa fa? Piange? No, non piango, piccolo bastardo. Babbo Natale non piange mai. E allora, Babbo, è quasi mezzanotte. È ora di uscire a portare i regali. Prendete i manganelli e mi raccomando, menate forte, ai sogni.